Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Gérard de Villefort in questo momento era tanto felice quanto è concesso a un uomo di esserlo. Già ricco di suo, a 27 anni occupava un posto elevato nella magistratura e stava per sposare una bella ragazza, che amava non appassionatamente ma con la ragione, come può amare un sostituto procuratore del re. E oltre la bellezza, che era notevole, la signorina di Saint-Méran, la sua fidanzata, apparteneva a una delle famiglie a quel tempo più favorite a corte. E oltre all'influenza del padre e della madre di lei, che, non avendo altri figli, poteva essere consacrata tutta intera al loro genero, portava in più al marito una dote di 50.000 scudi che, grazie alle speranze, parola atroce inventata dai sensali di matrimonio, poteva un giorno aumentare con un'eredità di 500.000. Tutti questi elementi riuniti componevano dunque per Villefort un quadro di felicità abbagliante, al punto che gli sembrava di vedere delle macchie solari quando guardava a lungo la sua vita interiore con la vista dell'anima. Nel momento in cui, seguendo la Grande Rue, giunse all'angolo di Rue des Conseils, un uomo che sembrava attendere il suo passaggio lo avvicinò. Era Morrel. «Ah, signor de Villefort!» esclamò il brav'uomo riconoscendo il sostituto. «Sono proprio felice di incontrarvi. Pensate, si sta commettendo lo sbaglio più strano, più inaudito. È stato arrestato il secondo del mio bastimento, Edmond Dantès!» «Lo so, signore», disse Villefort. «Vengo per interrogarlo». «Oh, signore», continuò Morrel, trasportato dalla sua amicizia per il giovane, «voi non conoscete l'accusato, ma io sì che lo conosco. Immaginatevi l'uomo più amabile, più onesto, e direi quasi l'uomo che conosce meglio il suo mestiere di tutta la marina mercantile. Oh, signor de Villefort, ve lo raccomando caldamente e con tutto il cuore». Villefort, come si è potuto vedere, apparteneva al partito aristocratico della città e Morrel al partito popolare. Il primo era ultrarealista, il secondo sospettato di bonapartismo. Villefort guardò sdegnosamente Morrel e gli rispose con freddezza: «Voi sapete, signore, che si può essere amabili nella vita privata, onesti nelle relazioni commerciali, abili nel proprio mestiere e tuttavia grandi colpevoli politicamente parlando. Voi lo sapete, non è vero, signore?» E il magistrato calcò su queste ultime parole, come se avesse voluto riferirle all'armatore stesso, mentre con il suo sguardo scrutatore si sforzava di penetrare fino in fondo al cuore di quell'uomo ardito abbastanza da intercedere per un altro, quando doveva sapere che aveva bisogno lui stesso di indulgenza. Morrel arrossì, poiché non si sentiva la coscienza pulita quanto a opinioni politiche. E d'altronde, la confidenza che gli aveva fatto Dantès sul colloquio con il gran maresciallo e sulle poche parole che gli aveva rivolto l'imperatore lo turbavano non poco. Tuttavia, aggiunse con il tono del più profondo interesse: «Ve ne supplico, signor de Villefort, siate giusto come dovete, buono come sempre, e rendeteci molto presto questo povero Dantès». Il «rendeteci» risuonò sospetto all'orecchio del sostituto procuratore del re. Si disse, «rendeteci? Questo Dantès sarebbe forse affiliato a qualche setta di carbonari, perché il suo protettore impieghi così, senza pensarci, la formula collettiva? È stato arrestato in un'osteria», ha detto il commissario. «In numerosa compagnia», ha aggiunto. «Forse si sarà trattato di una vendita». Poi, proseguendo ad alta voce, rispose: «Signore, potete stare tranquillo. Non vi sarete appellato inutilmente alla mia giustizia, se l'imputato è innocente. Ma se al contrario è colpevole, viviamo in tempi così difficili che l'impunità sarebbe di fatale esempio. Io sarei obbligato a fare il mio dovere». E poiché era arrivato alla porta di casa, attigua al palazzo di giustizia, vi entrò maestosamente dopo aver salutato con gentilezza glaciale l'infelice armatore, che rimase come pietrificato sul posto dove lo aveva lasciato Villefort. Dantès era sempre pallido, ma calmo e sorridente. Salutò il suo giudice con cortesia disinvolta, poi cercò con gli occhi una sedia, come se si fosse trovato nell'ufficio dell'armatore Morrel. «Chi siete? E come vi chiamate?» domandò Villefort, sfogliando le note che la gente gli aveva consegnato entrando e che in appena un'ora erano divenute voluminose, perché la delazione si attacca presto al corpo degli sventurati divenuti imputati. «Mi chiamo Edmond Dantès, signore», rispose il giovane con voce calma e chiara. «Sono secondo a bordo del bastimento Faraon, che appartiene alla società Morrel e figlio». «La vostra età?» continuò Villefort. 19 anni», rispose Dantès. «Cosa facevate al momento dell'arresto?» «Partecipavo al mio pranzo di fidanzamento, signore», rispose Dantès con voce leggermente commossa, tanto era doloroso il contrasto fra quei momenti di gioia e la lugubre cerimonia che si compiva. «Avete servito sotto l'usurpatore?» «È caduto quando stavo per essere arruolato nella marina militare». «Si dice che le vostre opinioni politiche siano estremiste», disse Villefort, al quale nessuno aveva detto parola di ciò, ma che non riusciva a fare a meno di porre una domanda come si pone un'accusa. «Le mie opinioni politiche, signore. Ahimè, quasi mi vergogno a dirlo, ma non ho mai avuto ciò che si chiama un'opinione. Ho appena 19 anni, come ho avuto l'onore di dirvi. Non so niente, non sono destinato a nessun ruolo. Il poco che sono e che sarò, se mi viene concesso il posto che desidero, lo dovrò solo al signor Morrel. Perciò tutte le mie opinioni, non dirò politiche, ma private, si limitano a questi 3 sentimenti. Amo mio padre, rispetto il signor Morrel e adoro Mercedes. Ecco, signore, tutto ciò che posso dire alla giustizia. Vedete che questo può interessarla ben poco». Man mano che Dantès parlava, Villefort osservava il suo viso dolce e aperto nello stesso tempo. Per l'esperienza che aveva nel trattare i delitti e i delinquenti, il sostituto vedeva in ogni parola di Dantès le prove della sua innocenza. Questo giovane, che si poteva dire ancora un ragazzo semplice, spontaneo, eloquente, di quell'eloquenza del cuore che non si trova mai quando si cerca, pieno d'affetto per tutti perché era felice e perché la felicità rende buoni perfino i malvagi, riversava sul suo giudice la dolce affabilità che gli traboccava dal cuore. Per quanto rude e severo fosse stato Villefort con lui, Edmond non aveva nello sguardo, nella voce, nel gesto, altro che affabilità e bontà verso chi lo stava interrogando. In verità, disse Villefort, mi sembrate un così bravo giovane che per voi contravvengo alle regole ordinarie della giustizia e cercherò di aiutarvi a fare luce sulle cose riferendovi la denuncia che vi ha portato davanti a me. Ecco il foglio di accusa. Ne riconoscete la scrittura? E Villefort estrasse da una tasca la lettera e la passò a Dantès. Dantès la guardò e la lesse. Una nube gli attraversò la fronte e rispose: no, signore, non conosco questa scrittura, che per quanto contraffatta è scritta con sufficiente chiarezza. In ogni caso è una mano molto abile che l'ha vergata. Sono proprio fortunato, soggiunse guardando con riconoscenza Villefort, di trattare con un uomo come voi, poiché in effetti il mio calunniatore è un vero nemico. Al lampo che passò negli occhi del giovane mentre pronunciava queste parole, Villefort comprese quanta energia violenta si nascondesse sotto quella dolcezza apparente. Ora, disse il sostituto, rispondetemi francamente, signore. Cosa c'è di vero in questa accusa anonima? E Villefort gettò con disprezzo sulla scrivania la lettera che Dantès gli aveva restituito. Tutto e niente, signore, è la pura verità. Sul mio onore di marinaio, sul mio amore per Mercedes, sulla vita di mio padre. Thank you. Ebbene, quando partimmo da Napoli, spiegò Dantès, il capitano Leclerc si ammalò di una febbre cerebrale. Sentendosi vicino a morire, mi chiamò a sé. «Mio caro Dantès», mi disse, «giuratemi sul vostro onore di fare ciò che vi dirò. Si tratta di una questione del più alto interesse». «Ve lo giuro, capitano», risposi io. «Ebbene, siccome dopo la mia morte il comando del bastimento spetta a voi in qualità di secondo, assumerete questo comando e farete rotta all'isola d'Elba. Sbarcherete a Portoferraio. Cercherete del gran maresciallo, gli consegnerete questa lettera. A quel punto, può darsi che lui vi affidi un'altra lettera e vi incarichi di una missione. Questa missione, che era riservata a me, la eseguirete voi, Dantès, al mio posto, e tutto l'onore sarà vostro. 2 ore dopo cadde in delirio. L'indomani era morto. Feci dunque vela verso l'isola d'Elba e, come il povero Leclerc aveva previsto, il gran maresciallo mi consegnò una lettera incaricandomi di portarla di persona a Parigi. Glielo promisi per compiere le ultime volontà del mio capitano. Contavo di partire domani per Parigi quando, per questa accusa che sembra voi pure disprezziate quanto me, fui arrestato. «Sì, sì», mormorò Villefort, «mi sembra la verità. E se siete colpevoli, lo siete solo di imprudenza. E anche questa imprudenza potrebbe essere legittimata dagli ordini ricevuti dal vostro capitano. Consegnatemi la lettera che vi è stata affidata all'isola d'Elba. Datemi la vostra parola d'onore di presentarvi alla prima inchiesta e andate pure a raggiungere i vostri amici». «Allora sono libero, signore!» esclamò Dantès al colmo della gioia. «Sì, datemi soltanto quella lettera. Deve essere davanti a voi, poiché mi venne presa con tutti gli altri documenti e ne riconosco qualcuno in quel fascio». «Aspettate», disse il sostituto a Dantès, che prendeva i guanti e il cappello. «A chi era indirizzata?» «Al signor Noirtier, rue Coqueron, Parigi». Se un fulmine fosse caduto sopra Villefort, non lo avrebbe abbattuto con un colpo più rapido e più inatteso. Si lasciò cadere sulla seggiola dalla quale si era per metà alzato per prendere il plico delle carte confiscate a Dantès. Le sfogliò precipitosamente e ne estrasse la lettera fatale, sulla quale gettò uno sguardo pieno di indicibile terrore. «Signor Noirtier, rue Coqueron numero 13, mormorò impallidendo sempre di più. «Sì, signore», rispose Dantès meravigliato. «Lo conoscete?» «No», rispose prontamente Villefort. «Un servo fedele del re non conosce i cospiratori». «Si tratta dunque di una cospirazione?» domandò Dantès, che veniva ripreso dopo essersi creduto libero da un terrore più grande del precedente. «In ogni modo, signore, ve l'ho detto, ignoravo completamente il contenuto del dispaccio di cui ero l'autore». «Sì», riprese Villefort con voce sorda. «Ma conoscete il nome del destinatario?» «Bisognava che lo conoscessi, se dovevo consegnarlo nelle sue mani». «E non avete mostrato quella lettera a nessuno?» chiese Villefort, che impallidiva sempre di più man mano che procedeva nella lettura. «A nessuno, signore, sul mio onore!» Villefort si passò la mano gelata sulla fronte grondante di sudore e si rimise a leggere la lettera. «Oh, se lui conosce il contenuto di questa lettera, e se venisse a sapere un giorno che Noirtier è il padre di Villefort, sono rovinato, rovinato per sempre». Villefort fece uno sforzo violento su se stesso e con un tono di voce che voleva rendere sicuro disse: «Signore, dall'interrogatorio risultano gravi indizi contro di voi. Non sono quindi in grado, come avevo sperato poco fa, di mettervi immediatamente in libertà. Ebbene, vi tratterò come prigioniero ancora un po', il meno che mi sarà possibile. Il principale atto d'accusa che esiste contro di voi è questa lettera. E voi vedete...» Villefort si avvicinò al caminetto, gettò la lettera sul fuoco e restò immobile finché fu ridotta in cenere. «Guardate», continuò, «l'ho distrutta». «Oh!» esclamò Dantès. «Signore, voi siete più che la giustizia. Siete la bontà personificata. Vi farò trattenere fino a questa sera al Palazzo di Giustizia. Forse qualcun altro verrà a interrogarvi. Dite tutto ciò che avete detto a me, ma non una parola su quella lettera. Ve lo prometto, signore, giuratelo. Dantès tese la mano. Lo giuro, disse. Una vettura aspettava alla porta che dava sulla strada. Il cocchiere sedeva a cassetta. Un ufficiale di polizia gli era seduto accanto. «È per me questa vettura?» chiese Dantès. «È per voi!» rispose uno dei gendarmi. «Salite!» Attraverso le inferriate, strette tanto che poteva appena passarvi la mano, Dantès riuscì a vedere che percorrevano la Rue Chasserie e che da Rue Saint-Laurent e da Rue Taramis scendevano verso il porto. La carrozza si fermò. I due gendarmi seduti sul sedile anteriore furono i primi a scendere, quindi fu fatto scendere Dantès. Infine scesero quelli che gli stavano ai lati, camminarono verso una barca che un marinaio della dogana teneva ferma al molo con una catena. Una spinta violenta staccò il battello dal molo e quattro rematori vogarono vigorosamente verso il pilon. La barca aveva già oltrepassato la Tête de Mort, si trovava di fronte all'insenatura del faro, e stava per oltrepassare la batteria. Una manovra incomprensibile per Dantès. «Ma dove mi conducete?» chiese a uno dei gendarmi. «A meno che non abbiate una benda sugli occhi o che non siate mai uscito dal porto di Marsiglia, dovreste indovinare dove andiamo». «No!» «Allora guardatemi intorno!» Dantès si alzò. Guardò nella direzione in cui sembrava dirigersi il battello e a cento tese vide innalzarsi la roccia nera e scoscesa sulla quale sorge il nero castello d'If. «Oh mio Dio!» gridò. «Il castello d'If! E cosa ci andiamo a fare?» Il gendarme sorrise. «Mi portate là per imprigionarmi?» continuò Dantès. «Il castello d'If è una prigione di Stato, destinato soltanto ai grandi condannati politici. Io non ho commesso alcun crimine. Vi sono forse dei giudici istruttori o altri magistrati al castello d'If?» «Ci sono soltanto, suppongo», rispose il gendarme, «un governatore, dei carcerieri, una guarnigione e delle buone mura». Dantès strinse la mano del gendarme fino a spezzargliela. «Voi quindi sostenete», esclamò, «che mi portate al castello d'If per imprigionarmi?» «Probabilmente», rispose il gendarme. «Ma in ogni caso, compagno, è inutile stringermi la mano così forte». «Senza un'altra inchiesta? Senza altre formalità?» domandò il giovane. «Le formalità sono compiute. L'inchiesta è finita». «Così, nonostante la promessa del signor di Villefort?» «Io non so se Villefort vi ha fatto una promessa», disse il gendarme. «Ma quello che so è che andiamo al castello d'If». «Ehi, cosa state facendo, compagni? Aiuto!» Con un movimento fulmineo come lampo, ma che però era stato anticipato dall'occhio esercitato del gendarme, Dantès avrebbe voluto gettarsi in mare. Ma quattro pugni vigorosi lo fermarono nell'istante in cui i suoi piedi si stavano staccando dal fondo della barca. Ricadde sul fondo della barca, urlando di rabbia. Quasi nello stesso istante un urto violento scosse il battello. Dantès capì che erano arrivati e lo scafo veniva attraccato. «Dov'è il prigioniero?» domandò una voce. «Eccolo!» risposero i gendarmi. «Mi segua! La condurrò al suo alloggio!» Il prigioniero seguì la sua guida e lo condusse in una cella quasi sotterranea, dove i muri, nudi e umidi, sembravano impregnati di un vapore di lacrime. Una specie di lanterna, posata sopra uno sgabello e il cui stoppino nuotava in un grasso fetido, illuminava le pareti lucide di quella spaventosa dimora. Il carceriere, mal vestito e di bassa statura, disse: «Ecco la vostra camera per questa notte. È tardi e il signor governatore è a letto. Domani, quando si sarà alzato e avrà preso conoscenza degli ordini che vi riguardano, forse vi cambierà domicilio. Frattanto, eccovi del pane. C'è dell'acqua in questa brocca, della paglia laggiù in un angolo. Tutto quello che un prigioniero può desiderare. Buonanotte!» E prima che Dantès potesse aprire bocca per rispondergli, il carceriere aveva preso la lanterna e, chiudendo la porta, aveva tolto al prigioniero quella luce incerta che gli aveva mostrato, come al chiarore di un lampo, i muri umidi della sua prigione. Allora si trovò solo, nelle tenebre e nel silenzio, muto e tetro, come le arcate di cui sentiva il freddo glaciale scendere sulla fronte che scottava. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti.